L'ammiccamento non è solo un colpo di tergicristalli sugli occhi, questo in periferia senza dubbio è molto importante, ma ci dice qualcosa che c'è alle spalle. Per esempio, noi tendiamo ad ammiccare di più quando siamo più tesi, questo perché il circuito gamma, che è il circuito della preaccensione dei nostri muscoli, è attivo, e a volte ammicchiamo poco quando abbiamo una malattia, tipico esempio del Parkinson. Cosa hanno fatto gli studiosi giapponesi? Sono andati oltre alle implicazioni neurologiche e motorie, e hanno visto che sostanzialmente durante il battito delle nostre palpebre viene staccato il network dell'attenzione, si chiama network attentivo dorsale. Cosa vuol dire in altre parole? È come quando siamo in una riunione un po' noiosa e ogni tanto diamo un'occhiata al nostro cellulare a vedere se è arrivato qualche SMS. Esattamente questo. C'è da dire che andando avanti nel corso della giornata, se le cose diventano noiose, questi intermezzi diventano più frequenti e più lunghi. Guardiamo sempre più i fatti nostri. Quindi ammiccare ricarica e svaga. Una cosa simile lo fa anche lo sbadiglio, professore. Ah sì, lo sbadiglio è un atto, anche questo riflesso straordinario, e che rivela molto del nostro organismo. In realtà lo sbadiglio è addirittura visto come uno strumento di comunicazione che richiede una perfetta salute mentale, un perfetto sviluppo neurologico per poter avvenire. Viene considerata una comunicazione non verbale che sincronizza il comportamento di un gruppo in presenza di situazioni sgradevoli, la fame, la noia, il sonno, ma non pericoloso. Un esempio molto calzante: avete presente quando magari sei in una cena discretamente formale, fa molto caldo, il primo si leva la giacca? Beh, se la levano tutti gli altri. Questo è lo sbadiglio, sincronizza tutti, infatti è abbastanza contagioso, su una situazione di lieve noia, di lieve fastidio, ma ha una funzione empatica, cioè di collante, in questo è molto democratico.